Lon Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti da Teresa e benvenuti ad una nuova puntata di Van Loon, programma a cura del Caso S. Van Loon come Hendrik Willem, noto storico e divulgatore olandese. Caso S come il gruppo di studentesse e studenti bolognesi che ha dato vita ad un progetto di comunicazione storica. Ogni due settimane saranno loro a parlarci proprio di storia, sottoponendoci spunti di riflessione e approfondimenti di vario genere, anche legati ad argomenti di attualità. In questa puntata si parlerà di divorzio e del percorso che ha portato in Italia alla sua istituzione. Sentiamo. Ciao a tutte e tutti da Debs e Lara. Oggi vogliamo parlare con voi di divorzio, ricordando le vicende e i dibattiti che hanno portato alla sua istituzione. Lontano dall'essere qualcosa di scontato, anche se oggi lo può sembrare, la possibilità di divorziare è stata garantita con il referendum del 12 e 13 maggio del 74, appena 38 anni fa. La popolazione italiana era chiamata ad esprimere la propria opinione sulla legge Fortuna Baslini, approvata in Parlamento nel dicembre 70, legge che appunto permetteva il divorzio con quasi 100 anni di distanza rispetto a paesi come Francia e Gran Bretagna. Il dibattito sul divorzio affonda le sue radici addirittura nell'Ottocento, quando la struttura rigida della famiglia borghese si scontrava coi lasciti dell'illuminismo. Maggiore libertà dell'individuo voleva dire meno garanzia ai privilegi di ceto e religione. La legittimazione del divorzio veniva presentata da chi era favorevole come uno degli elementi di avanzamento della società. Chi era contrario la considerava il primo passo per la degenerazione. Il binomio famiglia e società viaggiava insieme. Questo connubio era talmente forte che lo ritroviamo nello slogan di Mazzini, patria, famiglia, libertà, proprio durante il Risorgimento. Come tutti sanno, l'unità della penisola sotto la corona di Savoia avvenne all'insegna dello scontro rispetto allo Stato Pontificio. In questo clima, il dibattito sul divorzio era ovviamente molto debole, tant'è che la prima proposta di legge formulata nel 1878 da Salvatore Morelli, deputato protofemminista, venne respinta anche da quanti favorevoli al divorzio. L'emancipazionismo di Morelli viene mitigato nelle numerose proposte di legge che vennero alla fine dell'Ottocento comunque rifiutate. Nel 1901 la questione viene riaperta da due deputati socialisti, affrontando anche il problema del riconoscimento dei figli illegittimi. L'anno successivo si rivela quasi fatidico. Con l'appoggio del presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli, il re stesso annuncia la presentazione della legge durante il discorso della corona all'apertura del Parlamento. Ora che la legge viene presentata da socialisti, la questione si rivela sempre più politica, anche perché trova sostegno nella mobilitazione femminile italiana, che cresce proprio nei primi del Novecento. Così, per la prima volta, la stampa dedica spazio alle discussioni e alle diverse opinioni, stimolando l'opinione pubblica. Quando la legge sembra ormai essere approvata, entra in gioco la macchina ecclesiastica, con il suo sistema pastorale. Il decreto proposto dalle sinistre venne così bloccato dall'intervento delle forze cattoliche, che raccolsero 3 milioni e mezzo di firme contro la sua approvazione. Il modello familiare statico e mutabile della famiglia cattolica diventerà sempre più un'arma politica della Chiesa, inteso come naturale e sacro, invece che determinato da processi storici e culturali. Arriviamo così al fascismo, che connota fortemente la famiglia in senso patriarcale e gerarchico. Di divorzio non si deve nemmeno parlare, soprattutto dopo i patti lateranensi del 1929, che equiparano il matrimonio civile a quello cattolico. Dopo il periodo fascista, il discorso fu ripreso nel dopoguerra in seno all'Assemblea Costituente, che doveva porre le basi per la ricostruzione della società. Ritorna in gioco il ruolo della famiglia, ma intesa come società naturale oppure come costruzione storica. A lottare per un vincolo familiare inteso come naturale e indissolubile era la Democrazia Cristiana, nel tentativo di presentarsi come custode di sani principi e del conseguente buon funzionamento dello Stato. Lo scontro tra forze di sinistra e la DC si risolse nel compromesso dell'articolo 29 della Costituzione italiana, che recita: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Si evita così una possibile legge sul divorzio. Uno spazio per la modernizzazione venne finalmente aperto negli anni 60. Il boom economico e la trasformazione dei costumi erano sintomo di un'atmosfera rinnovata. Nella società, d'altro canto, cresceva il movimento femminista, che tra le sue rivendicazioni includeva il diritto a sciogliere il vincolo matrimoniale. Riviste femministe, tra cui Noi Donne, fu una delle più importanti e servivano a diffondere il dibattito e a sensibilizzare l'opinione pubblica. Fu infine loro sfortuna deputato socialista, a presentare la legge sul divorzio che entrò ufficialmente a far parte del codice civile. Questo grazie all'appoggio del Partito Radicale e della critica sociale dei movimenti politici, di giovani e di donne. Il referendum abrogativo della legge fu immediatamente richiesto in Corte di Cassazione e si arrivò al voto nel maggio del 74. Le campagne di sensibilizzazione si muovevano nella radio, nella TV e nelle piazze, scuotendo la società tutta. È ovvio che le tante donne che riflettevano e combattevano contro le discriminazioni di genere e il ruolo di subordinazione della donna vedevano in maniera diversa la possibilità di divorziare. Non bastava una legge per abbattere l'aspetto patriarcale e misogino della famiglia. La chiamata alle urne rappresentò anche un importante momento di prova per la popolazione italiana, che chiamata a decidere tra reazione e progresso scelse la modernità. Il 59% dei votanti decise di mantenere la legge Fortuna e così facendo scardinò definitivamente il dogma dell'unità familiare. Consapevoli o meno, i votanti avevano segnato la storia culturale dell'Italia, anzi la propria storia. Ma in noi il dibattito sulla famiglia non è finito. Cambiano le idee sull'amore e sul rapporto fra i sessi, ma le leggi sono sempre troppo distanti. Un esempio sono le coppie di fatto e i matrimoni fra omosessuali, oppure la scarsa sensibilizzazione su molestie infantili ed omicidi di donne che avvengono proprio all'interno della sacra famiglia italiana. Sarebbe auspicabile anche una discussione sul rapporto generazionale tra genitori e figli, a volte costretto all'interno di una cultura familista tutta italiana per nulla lodevole. E con queste riflessioni vi salutiamo, invitandovi a visitare il nostro sito www.casoeste.org e alla prossima puntata!